facciamo una rapina. Una rapina? Sì, una rapina. Io la pistola la tengo e mi ammazza la tengo. Tipo il capone nell'intoccabile, mi spiego. Quei caschi integrali non ci vedo. Facciamo una rapina. Una rapina? Sì, una rapina. Io una pistola la tengo e una mazza la tengo. Tipo un capone nell'intoccabile, mi spiego. Quei caschi integrali non ci vedo. Quei caschi integrali non ci vedo. Quei caschi integrali non ci vedo. Al supermercato Grai c'erano gli sbirri. Allora volammo dove erano le stighe, a tabaccaia tutta birra. Muovete, muovete, mette sorde, mette sorde dentro la busta. Piano piano è tutto a posto. Allora gli spicci, agosti dentro con la mazza. Dove stanno gli spicci? Chi da già scassa la capa? Fammi anche gratto e vinci. Mentre Tempino fotteva caramelle, gomme e penne. Mentre il tabaccaio riempiva la busta, raccimolando pezzi da 10 e 20. Al supermercato Grai c'erano gli sbirri. Allora con la moda erano le stiga, il tabaccaio tutta birra. Muovete, mette soldi dentro la posta. Piano, piano, è tutto a posto. Allora le spicci, a così non trago la mazza. Dove stanno i spicci? Allora chi ha già scassato la capa? Dammi anche i tratti e vinci. Mentre Tendino fotteva caramelle come penne. Mentre il tabaccaio riempiva la busta, raccimolando pezzi da 10 e 20. Guaiù, faccite un presso, fumo fuori, tipo razzo. Vado, sei tutto pazzo, no, e no. Guaiù, facciamo un po' di dico. Manco a dirlo, eravamo dentro. Radici tutte sorte, radici tutte sorte. Mettete le sue sorte che attendo. Dentino intimava con la mazza, avete capito? In un attimo aveva spaccato tutto, i bicchieri super alcolici e guidò. Mosca sulla cassa, ma da morire mamma, la seconda per la capa. E puntava i camerieri con la mazza, tutto scoportello e un orbutto di pezzi da 50. E un orbutto di pezzi da 50. Manco a dirlo, eravamo dentro. Radici tutte sorte, mettete tutte sorte che attendono. Dendino l'indimava con la mazza, avete capito? In un attimo aveva spaccato tutto, bicchiere su pelle alcolici. E gridò, lo scasso la cassa. Ma a te muri in mamma, la seconda per la capa. E puntava i camerieri con la mazza. Tutto sto portello è un botto di pezzi da 50. Un botto di pezzi da 50. Un botto di pezzi da 50. Un botto di pezzi da 50. Sul motorino, l'ultima cosa prima di tornare a casa. Un messaggio all'edizio, prima della lezione, prima della noia del giorno dopo, prima della nuova paranoia. Sul motorino, l'ultima cosa prima di tornare a casa. Un messaggio all'edizio, prima della lezione, prima della noia del giorno dopo, prima della nuova paranoia. Buonanotte, panterina mia. Buonanotte, panterina mia. Buonanotte, panterina mia.